Una buonasera Radio Città del Capo, radio che si trasforma con 451 in qualcosa di inaudito. Questa sera in compagnia di Eliseo Scarpa e Max Macchia. Ecco qua. Le voci che non si sentivano più, soprattutto la mia, devo dire, non è che cos'hai la tua. Fatto quest'anno? Ma cioè, guarda, sarebbe molto troppo lungo da spiegare quello che è successo in questi 3 mesi, però purtroppo succede anche questo. Mi scuso della mancata presenza in molte trasmissioni. È successo un po' di tutto, però l'importante è ripartire. Siamo ripartiti stasera. Partendo forse, scusate il gioco di parole, proprio su un tema che ha attraversato la mia esistenza in questi 3 mesi, e cioè... Ah, perché, però ti sento un po' in cantina. Tipo, io. No, ma è perché sono un po' horror, così anticipiamo ecco, quello che sarà anche le tombe che si aprono, sentite i rumori. E, no, perché io qualche mese fa, tipo appunto un annetto fa, prima insomma che andassimo in vacanza. Usiamo il termine vacanza. E, no, avevo detto che ti davo quasi per morto, però in realtà insomma... è vivo, ecco. No, non sono morto, qua, qualcuno ha fatto uscire questa notizia, così non si capiva, girava, ma devo dire che poi oltretutto tu ridi, ma è successo con un nostro ospiti di una trasmissione 2 mesi e mezzo fa, no? In particolare quando parlavamo con Gino e Jerry della trasmissione che dovevamo organizzare, sembravi un morto, e io non potevo esserci perché appunto erano successe un po' di cose e girava appunto questo dubbio che fosse successo qualcosa a me proprio in termini di malattia. Però è successo con un altro mio amico, sempre nel periodo in cui non riuscivo a fare più niente perché ero talmente bombardato dalle cose, che a un certo punto una persona aveva capito la stessa cosa anche di me, che pensavano che fosse morto. Dunque non è stato un solo caso, non ho capito. Quindi ti hanno visto e hanno detto ma sei morto? No, non mi hanno proprio visto. Non t'hanno più pensavano visto. Appunto, dato che non mi vedevano e non mi sentivano, che fossi morto, andato dal insomma nell'altro mondo. Tu non sei morto? No, cioè ci sei qua? No, assolutamente. Quello è assolutamente, non è che dici sì o no, assolutamente. Poi giocheremo un po', no, su questo, presenza, vita, morte, un po' zombie insomma. Sai che stasera poi la tematica è proprio dentro questo insomma. Esatto, parleremo di suoni sinistri, così andremo a trovare quello che è un immaginario nostro, non soltanto nostro speriamo, insomma quello dell'horror, quello del macabro, anche quello dell'alterato, perché c'è molta alterazione poi in realtà per come intendiamo horror. Non ci interessa forse tanto l'intrattenimento horror. Ma ci interessano proprio le trasfigurazioni, le mutazioni, la nuova carne, entrare dentro i corpi, che così insomma sembra tutt'altra cosa. Forse potrebbe anche essere, insomma, però insomma, non lanciamoci in porno horror. Perché... Beh, c'è anche quel filone. Esatto, poi tra l'altro metteremo anche dopo un omaggio, insomma, a un regista. Sì. Tutte e due, anzi, amano, è vero, amano è vero. Il mondo della pornografia. E l'hanno anche attraversato attraverso varie cose, attrici, attori, situazioni, richiami, immaginari, è vero. Bene, dato che sennò rischiamo di parlare anche troppo, 451 frammenti sonori, vi ricordiamo sempre il nostro no blog, e cioè 451frammentisonori.noblogs.org, dove troverete forse le trasmissioni e le scalette delle ultime puntate che anche non ci lì, sono state, però va bene lo stesso, sia per problemi nostri, in particolare miei, e per problemi anche tecnici, tipo la scorsa settimana, che non è dipeso da noi il fatto di non essere in trasmissione. C'era una diretta che era stata appunto costruita per il referendum sulla scuola di Bologna, e dunque è saltata la puntata. Bene, stasera apriamo con questo titolo che abbiamo voluto chiamare sul discorso legato ai suoni, alle colonne, alle musiche e a qualcos'altro legato all'horror. 451 Sinister è appunto il tema della trasmissione, perché l'abbiamo chiamato così anche per riferirci a un film che ci ha molto colpito, uscito alla fine del 2012, appena uscito nelle sale in Italia, Sinister, un film uscito appunto e scritto e diretto da Scott Derrickson, un regista tra i più interessanti della nuova leva legata all'immaginario horror. è il secondo film, il primo è Vexorcism of Emily Rose, uscito qualche anno prima. Questo però film Sinister è sicuramente da consigliare, considerato da una gran parte della critica uno dei migliori film legati, diciamo, al genere horror, anche se poi spazia in maniera abbastanza interessante dentro la trama, con un richiamo molto forte a certe atmosfere, a certe immagini, a certi tempi filmici degli anni 70, utilizzando ad esempio soprattutto la tecnica delle riproduzioni di filmini in Super 8, creando dunque molta tensione, però anche con grande maestria registica e con un'ottima sceneggiatura. È un film veramente che vi consigliamo, Sinister. E da lì abbiamo oltretutto anche scoperto che gran parte dei brani inseriti all'interno della parte sonora del film, che è una parte molto importante nella costruzione proprio filmica, c'erano dei richiami a gruppi che conoscevamo e che ci hanno piacevolmente stupito, che poi risentiremo nella seconda parte, e poi anche altri progetti interessanti, tra cui Ulver, questo progetto di questo duo scandinavo che è nato come band black metal, ma poi sempre di più negli anni zero soprattutto spostatosi verso edizione di colonne sonore, dunque curando anche delle parti elettroniche, spingendosi anche in alcuni casi, in alcuni dischi, anche dentro il metal drone, ma poi riprendendo anche la loro matrice originale di black metal e anche di death metal. Ma sicuramente ci hanno stupito soprattutto in questa colonna sonora, e il brano che abbiamo selezionato è proprio un brano inserito nel film Sinister da parte appunto di Ulver, dal disco che è esattamente Silence Teaches You How to Sing, uscito nel 2001. Ci andiamo a sentire, quindi magari ricordiamo che la colonna sonora, il compositore della colonna sonora, quello ufficiale, esatto, in è Christopher Young, è anche quello abbastanza interessante. Sì. Tra l'altro si incrocia anche dentro Ulver un certo sinfonismo, parasinfonismo, è vero. Che dentro il black metal è anche per certi versi compresso e triturato anche dentro il metal drone, c'è cioè questa aria sinfonica di tanto in tanto. Hai tirato... voluto fare il colpo, sì, così un po' horror, ecco, capito? bello. Ma tu non fai nulla a caso. No, non siamo sinistri, siamo molto sinistri. Ti sento un po' così, però in grande forma. Grazie. Sei pure un bel ragazzo. Grazie. Thank you. Le voci distorte che sentite rappresentano proprio le dinamiche e le atmosfere del film Sinister, da cui appunto sono tratti questi suoni che poi sono stati utilizzati magistralmente da Scott Derrickson, utilizzando appunto queste manipolazioni fatte dagli Ulver, da questo disco che in realtà è uscito ben 11 anni prima del film di cui stiamo parlando. Però appunto Derrickson ha avuto la grande capacità di utilizzare questo lavoro di questa band scandinava piuttosto anomala, perché varia ancora in questi ultimi anni, album di chiaro sapore death metal, addirittura fino ad arrivare invece ad altri album dove le sperimentazioni tra rumorismo, atmosfere appunto da film score o soprattutto dimensioni elettroniche si mischiano a coloriture anche immaginari chiaramente legati alla dimensione metal. Però è un gruppo sicuramente molto interessante. Non a caso Derrickson, di cui abbiamo letto la scheda, che è un regista molto interessante, tra i più interessanti della nuova scena legata al film di genere, possiamo definire così, anche se poi è molto aperto il discorso di Derrickson sul cinema, ed è uno che anche anche molto appassionato di musica, infatti non a caso la colonna sonora di questo film rintraccia varie formazioni. Uno lo possiamo citare perché tanto stasera non lo metteremo, Sanò, sì. Boris Sanò, che è stato inserito proprio nella parte finale del film, quasi come colonna sonora finale del film stesso, oltre appunto agli Ulver, ma anche altri progetti paralleli, soprattutto di matrice scandinava, che si muovono tra sì, drone, metal drone e anche dimensioni più squisitamente elettroniche, fino ad arrivare poi a una grossa band che noi conosciamo e seguiamo da molti anni, che abbiamo messo molte volte in trasmissione anni fa, che andremo a risentire proprio verso la fine di questa trasmissione di stasera, come omaggio alla stessa band, alla stessa formazione, anche come riallaccio al film Sinister. Comunque sicuramente un ingresso questo degli Ulver, che ci apre la strada verso mondi assolutamente nuovi, che si apriranno subito, tipo Non aprite quella porta, con un personaggio veramente da Non aprite quella porta. Sì, non aprite quella porta, a questo punto perdonatemi la battuta, Non aprite quella gabbia, visto che da qualche anno, nel 2009, Burzum è appunto in galera per una questione anche piuttosto poco chiara, perlomeno ci abbiamo veramente capito poco. Tra l'altro pensiamo che se non chiamate immediatamente, ma sicuramente sul blog ci chiarirete voi l'idea, noi non prendiamo, cioè nel senso che non possiamo prendere posizione, perché non abbiamo veramente capito cosa è successo nel 2009 per quanto riguarda Burzum e quindi insomma la sua detenzione, e di fatto comunque sta in galera e stampa comunque anche delle cose piuttosto interessanti, anche appunto dal luogo di detenzione. E Burzum, se Ulver hanno diciamo dal 2000 in poi sposato in una certa qual maniera un eclettismo che poi i non metallari come noi pensano che sia non eclettismo, nel senso che in effetti era quasi impensabile pensare fino alla metà degli anni 90 che proprio dal metal potesse uscire un'attitudine nuova, un'attitudine dialettica, forse neanche oltre che l'eclettismo c'è proprio una dialettica anche seria, sperimentale, con mondi che sembravano veramente distantissimi, se pensiamo a certo metal degli anni 80 con quella iconografia anche un po' ridicola da glam, oppure l'epic metal, sì c'era anche il thrash metal di Metallica e soprattutto di Slayer, però insomma non si intravedevano tracce insomma di sperimentazione così ardita come invece succederà, e tra l'altro insomma gruppo che ha citato prima Eliseo e cardine insomma degli anni 0 e anche di questi anni 10, ovvero Sanò, con tutto poi anche il giro legato a Stefano Malley, quindi che va a andare da Etenor alle collaborazioni con Boris, insomma faccende piuttosto interessanti legate a metal drone, forse uno dei grandi aspetti insomma delle musiche sperimentali di ricerca degli ultimi anni. In questo senso quindi è veramente stato folgorante, sorprendente questo paesaggio immenso che si è aperto attraverso il metal, anche da personaggi non soltanto come Ulver, che magari sono arrivati un po' dopo a sperimentare, ma Burzum, che è un po' il faro, se non fosse così dark la faccenda potremmo anche definire la luce, ma forse insomma è veramente Non aprite quella porta, il macello proprio completo, ma nel senso veramente molto buono del termine, una macellazione sonora incredibile che addirittura ha portato a conseguire anche un pezzo come quello che stiamo per andare a sentire da Philosophem, che vive tanta di cosmicità quanto di ambient, quanto è decisamente sinistro nel suo porsi, quindi veramente una cosa quasi inaudita, cose che anni fa veramente quando uscì il disco ricordiamo qualcuno ci citava Burzum già con questo nome, uno diceva vabbè ma che mi devo ascoltare, e poi in realtà insomma invece era più che valido come ha aperto veramente un nuovo modo di intendere non soltanto il metal ma anche la sperimentazione, se pensiamo a un artista sperimentale che questa sera starebbe anche bene come il grande americano massimalista, non Glenn Branca ma Rhys Chatham, che si è dato anche lui al metal drone, o Kevin Drum, insomma, sì, anche Kevin Drum, personaggi che hanno sposato completamente ricerche che sono partite appunto anche attraverso Burzum e anche attraverso questo Philosophem. Torniamo indietro nel 1996, godetevelo perché è veramente un viaggione scuro. Thank you. Thank you. lo diciamo quasi sempre, ma questa volta più di altre, veramente sì, ci facciamo una cattiveria, insomma, a sfumare su questo pezzo che non, assolutamente non citiamo il titolo perché è assolutamente impossibile citarlo. Se vuoi provarci tu, Eliseo, ti vuoi divertire. Sono scandinavi, no? Sì, quindi se ti vuoi Rundgang. Ah, beh, però è tedesco. Rundgang, no, di sì, transzendentale Sauler der Singularität. Ah, sì. Beh, un po' di tedesco l'avevo fatto. Sì, però Singularität non mi sembra tanto tedesco. Singularität, mai sentito. Vabbè, Varga Virkens, personaggio uno dei due di Barnum. Barnum, sì, mi viene sempre Barnum. Barzum, sì, vabbè, il bar sotto il mare. Burzum, grande Burzum. Tra l'altro abbiamo anche fatto, così, tra il voluto e non voluto, anche un omaggio immaginario e sonoro a David Cronenberg, a Scanner, che insomma ha anticipato Burzum. Ci sembrava così un momento di dialettica. Prima parlavamo appunto di questa dialettica incredibile, sorprendente, che si è aperta appunto con Burzum e un personaggio, insomma, legati al black metal, che si sono poi trasformati meravigliosamente in metal droner, proprio come tra l'altro Ulver, anche Burzum norvegese. Scandina. Invece adesso, velocissimamente, perché il tempo c'è tiranno, l'ultimo progetto, andiamo a pescare una grande formazione. I Dem Die Star, una delle formazioni più interessanti di questi ultimi anni, è un duo che è stato costituito a Manchester in Inghilterra nel 2009, costituito da Miles Whittaker e Pendle Coven, che abbiamo avuto anche, questo è giusto ricordarlo, il piacere di poter ascoltare, di vedere dal vivo a Modena qualche giorno fa, uno splendido concerto dove appunto gli immaginari legati all'horror, al cinema, sia a livello musicale che a livello appunto di immagini che venivano trasmesse dai Dem Die Star, hanno sicuramente colpito anche la nostra idea di trasmissione. Abbiamo pensato subito, chiaramente, di inserirli dentro il nostro percorso di stasera. L'album di questione è del 2010, Liberation Through Erring, dove dalla stessa copertina c'è un chiaro riferimento con varie immagini estrapolate ai dischi connessi a livello di immaginario filmico, da appunto film anni 70 italiani, tra horror erotici e dimensioni gotiche, thriller gotiche, e anche nel suono, nelle costruzioni sonore c'è un chiaro richiamo a queste dimensioni e a queste sonorità molto anni 70, ma con ovviamente inseriti dentro delle strutture dub, techno e con forti echi anche industriali che i Dem Die Star portano avanti con grande maestria. Andiamocela a sentire subito, anche perché appunto il tempo è poco, e ci sentiamo dopo il Radio Giornale. Torneremo tra l'altro anche poco con Cronenberg.